Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, già era presente chiaramente oltre che sui giornali, nei nostri GR24, questa mattina la riforma del diritto fallimentare, nel senso la liquidazione giudiziale, come si chiamerà d'ora in avanti, passata ieri con il sì del Senato, 172 voti a favore, 34 contrari, è diventata legge. Ma dico subito che al di là dei dettagli importanti comunque, perché riguardano sia la liquidazione giudiziale che altri elementi, per esempio l'obbligo da parte dei costruttori di immobili di tutelare gli acquirenti, quindi l'obbligo dei costruttori di fornire al momento della conclusione del contratto anche preliminare la fideiussione a garanzia dell'acquirente di immobili da costruire, e nuovo concordato preventivo, regole processuali semplificate e via così. C'è un tema, a mio avviso, più ampio e anche che va oltre la semplice riforma del diritto fallimentare, come alcuni commentatori hanno fatto notare, e da anni ne parliamo, il tentativo di cambiare la testa e quindi l'accezione che ha in questo paese il fallimento di un imprenditore. È chiaro che non stiamo parlando dei fallimenti dovuti a cattiva gestione o peggio ancora a una gestione fraudolenta, visto che in alcuni casi li abbiamo rischiati, penso ai casi bancari, ma non solo. Stiamo parlando del fallimento fisiologico e del fallimento benefico, se posso usare questo termine. In questo paese, quando tu fallisci la tua attività di impresa, hai una specie di esecrazione sociale, una lettera scarlatta che ti viene data perché sei un fallito. Cioè il fallimento dell'attività di impresa si coniuga con il fallito come imprenditore. In realtà nei paesi anglosassoni da sempre il fallimento viene visto come un tentativo che non è riuscito, e il motto è sempre il solito: solo chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. E lo dico perché a maggior ragione in questo periodo di rivoluzione economica e sociale in corso, dove stanno saltando tutti i modelli e gli schemi senza che abbiamo capito quale sarà il nuovo mondo a venire. Sappiamo che ce ne sarà uno nuovo, ma stiamo navigando a vista. Beh, se tu non tenti e non osi e non cerchi, immaginiamo il termine dell'esploratore, alcune volte utilizzato, non cerchi nuove strade, sbagliando, non si è mai visto un esploratore che al primo colpo abbia beccato un nuovo sentiero e un nuovo percorso. Beh, vuol dire che ti sconsegni sostanzialmente all'immobilismo. Quindi, al di là della riforma del diritto fallimentare, a mio avviso sotto c'è il tema se riusciamo a superare l'idea del fallimento come esecrazione, come sostanzialmente macchia non più cancellabile, e riusciamo a dire che al di là dei casi da reato, il fallimento è tipico di chi si mette in gioco, tenta una strada, delle volte la imbrocca, delle volte la sbaglia, torna sui suoi passi e ritenta un'altra strada. Si chiama rischiare, si chiama tentare, e non si può stroncare sul nascere ogni tentativo dicendo: guarda che se fallisci, però se sbagli percorso sei sostanzialmente un fallito, non sei uno che sta cercando nuovi percorsi, perché vuol dire segare le gambe a tutti, imprenditori, giovani, start-up, che hanno voglia di rimettersi in gioco e di provare nuove strade. Cito su questo una definizione che secondo me è perfetta, è Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Nel luglio del 2016 dice: un'area in cui mi sembra che noi di Amazon ci distinguiamo dagli altri è il fallimento. Amazon è il miglior posto al mondo in cui fallire, e infatti a forza di fallire poi le strade le imbrocchi. Non si è mai visto nessuno che, stando seduto a criticare gli altri e senza fare nulla, riesca a trovare soluzioni. Ripeto, solo chi fa sbaglia. Di questo parleremo, perché si lega anche a un tema che seguimmo molto da vicino, lo ricorderete, nel 2013-2012, anno terribile per le imprese in Italia. Ci inventammo, tra virgolette, un programma e un appuntamento con Oscar Giannino che si chiamava Disperati Mai, E all'interno, complice anche l'ondata di suicidi a cui assistevamo, sempre ingiustificati quando fallisce. Il suicidio non è mai giustificato, a mio avviso, ma a maggior ragione se lo fai per un fallimento aziendale. Dietro quei suicidi c'era spesso anche una cultura del territorio che vedeva nell'imprenditore che deve chiudere l'attività o nell'imprenditore che l'ha lanciata una e non ce l'ha fatta, uno stigma di carattere sociale e che ti portava delle volte anche a pensare a un gesto estremo come il suicidio. Ecco perché secondo me è un tema talmente importante che non può essere lasciato solo al diritto fallimentare. Ancora, da questo punto di vista, vedremo poi anche i dettagli della norma. Vedo molti messaggi, aspettate 5 minuti e ne parliamo. E dico subito a chi mi scrive: diffidate da chi vi dice attento, puoi sbagliare. Di solito sono persone che non hanno mai preso una decisione in vita loro, non hanno mai fatto granché, hanno solo eseguito, non si sono mai messe in gioco. E chiaramente in quei casi lì è facilissimo non sbagliare, perché meno fai, meno sbagli. Siccome il claim di questa radio si chiama Libera la voglia di fare, possiamo dire che libera anche la voglia di fare e di sbagliare, di fallire, se vogliamo essere maturi, se vogliamo fare quelli che seduti al bordo si criticano gli altri. Sport nazionale, non è questo programma per questo tipo di persone. La borsa meno 0,60% a Milano, invariata a Parigi, più 0,16 Francoforte, più 0,30 Londra, invariato anche il Dow Jones. Campari più 3,80, Terna più 0,70%, fronte opposto UBI meno 3,60, pesa ancora tutto il ragionamento sulle sofferenze bancarie con la nuova disciplina che scatterà per volere della Banca Centrale Europea dal 1 gennaio. Continua il battibecco, diciamo così, lo scambio di opinioni tra BCE e Parlamento Europeo dopo la lettera di Tajani. Dicevo, UBI Banca meno 3,60, Banco BPM meno 3%, Biper Banca meno 2,5%, Unicredit meno 1,20, Intesa San Paolo meno 1, Azimut perde il 3,40, Telecom il 2,20, Luxottica cede l'1,90, Ferragamo l'1,60 come Mediaset, Exor meno 1,40%, poco altro mosso, euro su dollaro a quota 1,18,39. Gli altri temi di cui tratteremo: vicenda all'Italia da un lato, perché Lufthansa nel avanzare una proposta su Air Berlin ha anche detto che sta analizzando il dossier all'Italia. Cercheremo di fare anche il punto sulla vicenda all'Italia, perché c'è un po' passata, non dico nel dimenticatoio, ma quasi. Lufthansa ha detto che sono interessati se vi sarà una nuova compagnia nel giorno in cui appunto ha firmato un accordo per 210 milioni per acquistare una buona parte di Air Berlin, e prende anche la controllata austriaca Niki. Niki era quella fondata, per chi se lo ricorda, da Niki Lauda. Parleremo anche, dicevo, oltre che della vicenda all'Italia, delle banche e di Banca Etruria, ma non solo, perché la richiesta di 400 milioni ci permetterà di fare il punto. La relazione del liquidatore Giuseppe Santoni davanti al Tribunale Civile, no? E il danno prodotto, stimato in 520 milioni di euro, mette sotto accusa i consigli di amministrazione che si sono succeduti dal 2010, quindi agli ex vertici 37 persone, tra cui gli ultimi vicepresidenti Pierluigi Boschi e Alfredo Berni, sono stati chiesti danni per 400 milioni di euro. Alla società di revisione PricewaterhouseCoopers viene attribuita la responsabilità di un danno da 112 milioni dovuto all'omesso controllo contabile in relazione agli illeciti commessi dai componenti degli organi sociali. Devo dire che, pur essendo noi coinquilini con la Pricewaterhouse, al di là della Price o di chi è, il fatto di chiamare in causa anche i revisori contabili mi sembra cosa buona e giusta. Tu li paghi, i revisori contabili? Allora, delle volte non hanno nessuna responsabilità, perché se tu hai truccato tutti i conti è difficile fare un'attività di revisione, ma altre volte non si possono chiamare fuori dopo che hanno certificato dei conti, se no che cosa li paghi a fare? Questo riguarda la parte risarcitoria, non riguarda il ruolo dell'autorità di vigilanza, perché c'è l'indagine sul lato penale, e quindi quella relativa alla bancarotta per il dissesto dell'istituto, che vede 22 ex dirigenti indagati. Lì non c'è Pierluigi Boschi, ma sono due indagini che vanno in parallelo e lo chiariremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre anche la diretta su Facebook. Qualcuno mi sta chiedendo anche della vicenda Melegatti. Sì, lì non c'entra con i fallimenti in senso stretto, è una vicenda di cui parleremo la prossima settimana, assurda, o meglio è lo spaccato di come non si devono gestire gli assetti societari familiari. Adesso non posso raccontarla in due minuti, ma insomma, rischiare di perdere un marchio del genere perché non si mettono d'accordo i soci di riferimento ed è una lotta intestina. Purtroppo il Veneto è una terra che ci ha abituato negli anni scorsi a lotte di questo genere, quasi sempre, se non sempre, con le conseguenze di distruggere valore. Non ho mai visto creare valore dalle lotte tra soci, famiglie, eredi e quant'altro, solo visto distruggere valore. Ne parleremo la prossima settimana. Andiamo avanti con le altre notizie in breve, perché vorrei arrivare al tema dei fallimenti sia dal punto di vista del diritto che dal punto di vista della cultura di questo paese. Nuovo record del Bitcoin a quota $5,144, la criptovaluta è tornata a crescere nonostante i provvedimenti restrittivi messi in atto dalle autorità cinesi. Il 70% dei Bitcoin si usano, vengono utilizzati in Cina. Tra l'altro, andando avanti sulle notizie di carattere internazionale, faccio notare che una nuova denuncia per quanto poco paghino di tasse i colossi del web arriva dal Financial Times, in prima pagina, che va a calcolare quanto hanno pagato nel Regno Unito Netflix ed eBay. 2 milioni scarsi di sterline come tasse, quindi un po' più di 3 milioni di euro, nonostante profitti per centinaia di milioni fatti in Gran Bretagna. eBay, che è leader nelle vendite su internet, ha potuto contare su entrate pari a 200 milioni di sterline, ha pagato 1.600.000 euro. Le tasse sborsate da Netflix, che è il servizio per vedere film e serie TV in streaming, sono state 300.000 sterline a fronte di entrate per 22 milioni di euro di sterline. E faccio notare che Netflix ha 6 milioni e mezzo di abbonati nel Regno Unito. Pagare, diciamo, come un professionista ricco 300.000 sterline per quando hai 6 milioni e mezzo abbonati mi sembra un po' pochino. Non voglio tornare su quanto paga Apple nel 2014, ha pagato lo 0,005% di tasse sui profitti in Irlanda, nonostante lì l'aliquota ci sia, è del 12,5%. Sì, lo so che Giannino, che mi precede, è dell'idea che tutte le tasse in più siano, diciamo, cibo che va alla bestia. Io invece ritengo che le tasse siano ancora un elemento, oltre che redistributivo quando lo Stato funziona, di equità sociale. Non me ne frega nulla, non esiste che tu con gabole di carattere fiscale, andando a collocare la tua sede dove meglio ti aggrada, paghi così poche tasse. Poi vogliamo ragionare su come si fa a ridistribuire meglio la pressione fiscale, siamo tutti d'accordo, ma dire che siccome è mal distribuita allora a sto punto è giusto che non paghino è come dire che è giusto passare col rosso perché alcune persone parcheggiano nel luogo degli handicappati oppure passano col rosso loro stessi. Ma che vuol dire? Veniamo alla Brexit. Oggi delusione ulteriore del commissario, del capo negoziatore dell'Unione Europea Michel Barnier, che ha detto dopo il discorso di Theresa May a Firenze c'eravamo, tra virgolette, illusi che vi fosse uno slancio in avanti, ma da allora non sono stati fatti grandi passi in avanti. Un non accordo comunque sarebbe un pessimo accordo, ma noi siamo pronti a tutte le eventualità. Sempre Barnier ha detto la Gran Bretagna non è sempre ancora pronta a precisare la sua posizione sugli impegni finanziari, siamo di fronte a un impasse estremamente preoccupante. Ancora due notizie sull'Italia, per quello che riguarda l'asta del tesoro. Oggi molto bene l'asta, anche se il rendimento del BTP a tre anni è leggermente salito allo 0,15%, ha segnato tutti i titoli a 30 anni, Per quello che riguarda i tre anni, erano il tesoro ha collocato 7,5 miliardi di euro di BTP a medio e lungo termine, a scadenza 3, 7 e 30 anni. Alla domanda, l'obiettivo massimo era 7 miliardi e mezzo complessivi, appunto la domanda è arrivata quasi a 12 miliardi. Il rendimento appunto del triennale è allo 0,15% lordo annuo, quello dei 7 anni è all'1,53% stabile lordo annuo, e il tasso di BTP a 30 anni è calato un po' al 3,33% sempre lordo e sempre annuo. Nuovo rapporto sull'industria alberghiera italiana durante il TTG incontri a Rimini. Federalberghi, attraverso il suo osservatorio, riaggiorna il dato. Da gennaio i pernottamenti sono stati il 3% in più, tra l'altro con un 3,5% in più di stranieri, 2,2% gli italiani. Il fatturato dei servizi di alloggio è aumentato del 4,6%, con un incremento forte nel secondo trimestre, più 8,2%, tant'è che gli albergatori, per voce di Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, parlano di anno eccezionale ma invitano a non crogiolarsi sugli allori. Non voglio anticipare la classifica di domani, però insomma, come i nostri GR24 hanno già ricordato, oggi vi sono state un insieme di perquisizioni nella sede di Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa del Ministero dell'Economia, nell'ambito dell'operazione che ha portato ad 8 arresti per corruzione. Il gruppo otteneva finanziamenti illeciti grazie a richieste di finanziamento creato ad hoc da un dipendente di Invitalia, 8 appunto le persone arrestate con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere per ottenere finanziamenti pubblici, tra loro anche un ex consigliere comunale Ignazio Cozzoli, eletto nella lista Marchini, poi passato al gruppo misto e poi decaduto. No. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora partiamo, il titolo di questo primo approfondimento può essere: chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, chi non fa non falla. Sì, come scrive un ascoltatore, vale il motto: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Questo è un paese in cui ci sono 22 milioni di commissari tecnici della nazionale, 22 milioni anche di più di maschi e donne italiane che sanno sempre che cosa andrebbe fatto, però quelli che si prendono la responsabilità di fare sono un po' meno. E ripeto, un vecchio vizio italico, quello in qualunque azienda, posto di lavoro, anche qua dentro, di mettersi, diciamo, seduti a guardare quello che fanno gli altri, vedere se inciampano, e quando inciampano dire: visto che sei inciampato, te credo, io stavo camminando, tu eri seduto. Molto difficile è inciampare da seduti. Si chiama assunzione di responsabilità. Ma andiamo prima alla riforma del diritto fallimentare. Saluto Giovanni Negri del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera anche ad Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster, nonché sociologo dei territori, e quindi ci aiutò nell'iniziativa con Oscar Giannino, Disperati Mai, negli anni in cui i suicidi avevano assunto un ritmo preoccupante, e conosce bene che cosa intenda dire per il problema culturale del fallimento. Buonasera anche a lei, Bonomi. Buonasera a voi. Allora, prima la legge e non poi l'inganno, e poi invece il ragionamento di carattere culturale. Giovanni, le novità sono molte, dalla liquidazione giudiziale, che come si chiamerà d'ora in avanti il fallimento, e poi le regole processuali semplificate, gli incentivi a ristrutturare i debiti, il nuovo concordato preventivo, l'insolvenza per i gruppi di imprese, il sostegno alle imprese per l'accesso al credito, con i controlli societari che dovrebbero essere più efficaci, e anche la tutela degli acquirenti di immobili da sugli immobili da costruire, ossia il costruttore avrà l'obbligo di fornire al momento della conclusione del contratto, anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell'acquirente di immobili da costruire, nonché la polizza assicurativa imposta dalla legge. Questo per evitare che la violazione da parte dei costruttori dell'obbligo di fornire la fideiussione. Quindi avrà l'obbligo. Siccome Sole 24 Ore ha dedicato un'ampissima sezione a questo, ti chiedo di riassumere i punti principali, perché esporli tutti porterebbe via tutto lo spazio del programma. Giovanni. Sì, certo. Allora, cerchiamo di essere molto sintetici. Io credo che la o anche le novità più importanti, ecco, se vuoi. Esatto. Io direi questo. Senz'altro, io credo che la novità più importante sia costituita dall'introduzione. Attenzione, questa comunque è una delega, dovrà essere scritto il decreto legislativo, quindi per tutti gli ascoltatori, prima di vedere operative queste misure bisognerà aspettare l'anno prossimo. Detto questo, e a questa altezza di tempo, sicuramente la misura più innovativa è l'introduzione delle cosiddette misure di allerta. Sono misure indirizzate ad evitare che una crisi di impresa dovuta a ragioni magari contingenti e finché ancora c'è del valore imprenditoriale da salvare diventi poi irreversibile e porti all'insolvenza. Creditori istituzionali come ad esempio il fisco e l'INPS hanno l'obbligo di segnalare le difficoltà di pagamento degli imprenditori. A quel punto si attiverà un meccanismo che dovrà condurre ad un piano di risanamento tale per evitare di dissipare quel po' di ricchezza che ancora sicuramente c'è e che va salvaguardata anche a tutela poi e dei posti di lavoro dei dipendenti e poi dei fornitori che comunque con l'impresa in crisi si trovano in ogni caso a lavorare. Finora non c'era nulla di tutto questo nel nostro ordinamento e io direi che se uno dovesse guardare ad una misura con la quale identificare questa riforma bisognerebbe guardare soprattutto a questa. Poi ci sono altri interventi assai significativi, come alcuni li ricordavi anche tu precedentemente, ma direi soprattutto la previsione finalmente di una procedura di insolvenza per i gruppi societari. Anche questa finora non era prevista dalla nostra legge fallimentare, che non dimentichiamocelo, magari anche attraverso alcuni restyling, però del 1942, il Regio Decreto. Okay? Sì, che era la base di una cultura un po' diversa. Adesso vi arriveremo con Bonomi. Cioè, quando una legge del 42, tu tendenzialmente, soprattutto in campo economico, la stai adattando a quel periodo, a parte che era un periodo di guerra, non certo a quello che è successo negli ultimi, anche solo negli ultimi 10-15 anni, ma poi vi arriveremo. Scusami, ti ho interrotto, Giovanni. No, prego. Era semplicemente per dire che le misure sui gruppi sono un altro segno assai innovativo. Anche le misure sul concordato preventivo, che diventa un istituto veramente cardine del nostro diritto fallimentare, più ancora di quanto lo sia adesso, con un recupero anche di spazi da parte dell'autorità giudiziaria rispetto agli ultimi interventi. Le misure sull'esdebitazione, cioè sulla liberazione dai debiti residui per l'imprenditore che ha assunto e ha conservato un atteggiamento di correttezza nel corso di tutta la procedura fallimentare. Ecco, Giovanni, voglio raggruppare alcune osservazioni, fermo restando che adesso parleremo con Bonomi del che cosa c'è dietro la riforma del diritto fallimentare, che come dicevo prima va oltre la riforma del diritto fallimentare stesso. Alcuni ascoltatori dicono sì, attenzione però, perché tutto bene quello che avete anticipato, ma in alcuni casi i fallimenti nascondono comportamenti fraudolenti e non tanto l'errore di chi rischia, di chi si mette in gioco, ma di chi vuole commettere un reato. Allora io ho premesso che chiaramente non stiamo parlando del fallimento come cattiva, nel ragionamento che faremo con Bonomi, cattiva o peggio fraudolenta gestione, però la legge, per farci capire da tutti, non rende tra virgolette più facile il fallimento fraudolento la cattiva gestione. Questo non deve passare, a mio avviso, questo messaggio. Prego, Giovanni. No, non deve passare questo messaggio, anche perché, se possiamo tranquillizzare gli ascoltatori, da questo punto di vista tutta la parte penale della legge fallimentare non è assolutamente toccata da questo intervento. Quindi, diciamo così, il reato di bancarotta in tutte le sue articolazioni, da quella preferenziale e via dicendo, resta del tutto inalterato. Semplicemente si vuole puntare, come dicevo prima, con alcune misure mirate a cercare di evitare che la crisi di impresa dovuta a ragioni situazioni magari contingenti, temporanee, diventi poi irreversibile, un po' per la renitenza dell'imprenditore stesso a rendere evidente una situazione di difficoltà, e un po' magari anche perché, diciamo, nel tradizionale pendolo delle riforme della legge fallimentare, negli ultimi anni il pendolo si era molto spostato, diciamo, in una certa direzione e a favore dell'imprenditore, magari anche questo sì, con qualche grado di responsabilità. Adesso si prova a riequilibrare il baricentro della legge fallimentare e credo che sia un tentativo tutto sommato da sottolineare con una certa positività. Sì, anche perché, guardate, l'idea di prevenire e di gestire meglio, come tu ricordavi, cioè il fatto che sia prevista una fase preventiva di allerta che è attivabile o direttamente dal debitore o d'ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici. E in caso di procedura su base volontaria, cioè quando io come debitore mi rendo conto che le cose non stanno andando come immaginavo, io vengo assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di Commercio e avrò 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Quindi in realtà la legge va nell'ottica di dare più tempo e maggiore gradualità. Se invece la procedura d'ufficio, cioè la aprono i miei creditori, tra l'altro è obbligatoria per fisco e INPS, il giudice convocherà immediatamente in via riservata e confidenziale il debitore, cioè me, e affiderà a un esperto l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. Giovanni, nel concludere il tuo spazio, scusatemi, possiamo dire che chiaramente se vi è un esito negativo nella fase di allerta, poi è pubblicato nel registro delle imprese, che a partire dalla parte preliminare il tentativo di arrivare a una soluzione il più possibile condivisa e graduale? Senza dubbio, va ricordato poi anche rispetto alle preoccupazioni degli ascoltatori a cui facevi riferimento prima, che la procedura di allerta può avere comunque uno sbocco davanti alla magistratura, davanti all'autorità giudiziaria. Nel caso l'imprenditore resti del tutto inerte, non si muova, non risponda alle sollecitazioni, al piano magari presentato dall'organismo di composizione della crisi, beh, alla fine non è che non succede nulla, alla fine si apre veramente l'insolvenza, va davanti alla magistratura, quindi anche questo può rappresentare un incentivo per l'imprenditore a muoversi con un minimo di tempestività e a cercare di tamponare la situazione prima che diventi veramente irreversibile. Sì, e diventa anche un aggravante, nel senso che uno ti potrà chiedere, scusami, ma se questa era la situazione della tua azienda, caro Barisoni, ma perché non ci hai avvertito in tempo e non hai attivato l'allerta, quella volontaria che ti avrebbe permesso di avere 6 mesi di tempo, di aver affiancato anche una consulenza, il giudice convoca le parti, il debitore e poi affida un esperto l'incarico di risolvere, cioè perché non ti sei mosso per tempo e non avrai più scuse, se ho ben capito, no Giovanni? Beh, certo, teniamo conto che ci sono poi anche degli incentivi e di natura fiscale e di natura penale a far muovere l'imprenditore per tempo, insomma. Quindi tutto sommato la logica, lo ripeto, sì, e anche le reazioni da parte delle associazioni degli imprenditori, che devo dire storicamente sono sempre state contrarie, anche Confindustria, alla introduzione di misure di questo genere nel corso del tempo, però è maturata una consapevolezza diversa che adesso alla stessa Confindustria fa dire che un intervento di questo genere è sicuramente benvenuto. Allora, grazie Giovanni Negri. Aldo Bonomi, resti con noi perché dopo il meteo invece vorrei andare oltre la legge e riagganciare questo tema al tema del fallimento come categoria dello spirito in questo paese. Negli Stati Uniti, se non hai un fallimento, non sei mai stato un bravo imprenditore, perché vuol dire che ti sei mosso solo su terreni già conosciuti e strabattuti, e un imprenditore è uno che intrapresa, nasce da lì il termine, vuol dire che tu ti assumi il rischio di un'avventura, di intraprendere, e quando un intraprende sbaglia o delle volte ce la fa. Ma da noi invece l'aver fallito una volta diventava la cosiddetta lettera scarlatta di cui sopra. Ne parliamo dopo il metro, la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Io volevo dare solo il mio contributo in quanto figlia di un suicida, Beh, mio padre si è tolto la vita 18 anni fa, però non nella crisi di oggi, erano gli anni 90 e probabilmente, io non lo so, ero piccolina, avevo 16 anni, ma magari era anche un evasore, magari aveva tutti i torti di questo mondo e tutto quanto, però è un uomo che si è tolto la vita per una questione di soldi, di debiti, di tanti debiti, perché mia madre ha dovuto rinunciare a tutto, io non ho neanche una foto di mio padre, ecco. Perché abbiamo dovuto rinunciare a tutto. Quello che voglio dire agli imprenditori che però pensano di togliersi la vita per i soldi è, prima di tutto, che sono d'accordo con chi è intervenuto prima di me e sono felice che qualcuno lo pensi, e secondo, che noi che rimaniamo, per quanto questo, che quello che mi è successo mi abbia forgiato, mi abbia dato energia, io sono un'imprenditrice, non ho paura di questo, lavoro, sono cresciuta, i miei fratelli anche, siamo una bella famiglia, però io dopo 18 anni ancora sto male, ancora piango, ancora non ho dimenticato, ancora ho difficoltà a relazionarmi con le altre persone e nella mia testa c'è sempre la stessa frase: se è riuscito a mollarmi lui, lo possono fare tutti. Quindi pensateci bene, perché non ci sono solo i soldi. Chiedo scusa. Allora, era il 27 aprile del 2012, durante l'iniziativa fatta con Oscar Giannino, Disperati Mai, Alice da Torino ci chiamò, questo è un estratto. Qualcuno mi sta scrivendo, devo dire che dopo quella telefonata ha ripensato anche a scelte, spero che le abbia ripensate per sempre, scelte, diciamo così, devastanti che stava per compiere. Lo dico perché quando con Aldo Bonomi si parlò di questi casi, dietro Bonomi c'era anche, e qui lasciamo stare la legge sul fallimento, qualcuno mi sta scrivendo, certo che poi se sono un fornitore vedo il fallito girare in Ferrari mi girano le scatole, ma non è di questo che stiamo parlando, lì c'è la legge e comunque ci sono anche delle aggravanti inserite in questa legge. Dietro la disperazione che porta al suicidio c'era anche un'idea di fallimento sociale, non societario, sociale, e quindi la lettera scarlatta, l'esecrazione. Bonomi, beh, devo dire che mai commento poteva essere più puntuale su quell'intervento che tu hai rimandato dalla trasmissione Disperati Mai, e devo dire che la legge entra nel merito togliendo una cosa fondamentale, lo stigma. La lettera scarlatta: sei fallito e quindi sei fuori dal consesso sociale e non puoi, e vieni bandito dalla dimensione non solo dell'economia in primo e automaticamente dalla società. E quindi da questo punto di vista io ritengo che la legge, mettendo in campo il fatto che si può riprendere, che si può ricominciare a fare economia, ad essere un soggetto socialmente riconosciuto e quindi a vivere, ha fatto un passo avanti necessario, tra parentesi, perché vorrei ricordare, e proprio perché ho seguito la trasmissione, non facciamo confusione, non stiamo parlando dei falliti a tasche piene, per capirci, stiamo parlando, e in quella trasmissione che abbiamo fatto assieme parlavamo di coloro che erano disperati essendo fino in fondo imprenditori di se stessi, che dentro i grandi processi di cambiamento e di crisi non ce la facevano più, e non facendola più proprio perché erano nella loro dignità e avevano fatto dell'impresa un progetto di vita. Questo è il punto vero. Quando l'impresa è un progetto di vita, e quindi non c'entra niente né essere truffaldini né altro, è un progetto di vita, fa parte della tua antropologia, certo, e del tuo sistema di vita. Tu sei riconosciuto il front office con la società per molti imprenditori che io chiamavo e ho definito i capitalisti molecolari era l'impresa. L'impresa dove magari avevano messo al lavoro tutta la famiglia, tutti i loro risparmi ed era un progetto di vita. Fallita l'impresa, fallisce il progetto di vita. Questo è il punto vero. La legge dice può fallire una volta, ma la vita va avanti, riprovaci. Primo dato. Secondo dato, molto importante. La legge viene a... tu hai citato nell'introduzione a questa trasmissione l'America, ma non c'è bisogno di citare l'America, vediamo come è cambiata l'Italia, perché il vero problema è che quella legge così rigorosa dall'alto verso il basso era una legge, se vogliamo usare un termine, tutto fordista, quando l'impresa era la grande impresa e allora va bene. Poi abbiamo assistito a fallimenti di grandi imprese accompagnati dalla statualità. Chiudo la parentesi, non entro nel merito. Ma il vero problema è che la legge andava adeguata quando abbiamo assistito al primo postfordismo, almeno allora, quando a un certo punto abbiamo avuto l'impresa diffusa, i distretti industriali, una dimensione, mi sia permesso di usare un termine pesante, una dimensione di capitalismo di popolo, cioè di popolo che virgolette intraprendeva rispetto a questo, e quindi la legge era inadeguata in quel momento di proliferazione. Ancora di più, faccio notare, adesso tutti quanti dalla mattina alla sera ci bombardano, giustamente, essendo entrati in un'altra fase dell'economia, la conoscenza globale in rete, a base urbana, la creatività. Ci bombardano e bombardiamo i nostri giovani dicendo fate le start-up. Benissimo, ma la start-up che cos'è se non la concretizzazione di un'idea che si prova a fare impresa che magari non ce la fa? Allora, resta, tu riprovi da questo punto di vista. Bonomi, resti con noi perché quest'ultimo aspetto mi interessa molto, dopo il traffico, che sta andando in un ritardo incredibile, però perché... Proprio nei tempi contemporanei, siccome si dice questa non è una crisi, è una rivoluzione, e siamo tutti d'accordo. Quando sei in mezzo a una rivoluzione è difficile che tu capisca dove va a finire, e anche qui siamo d'accordo, in qualunque rivoluzione industriale o politica l'hai capita solo alla fine. E quindi si naviga a vista, si va per tentativi, si fa come gli esploratori quando avevano di fronte una terra incognita, conoscevano poco, cercavano di vedere, poi tornavano sui loro passi, poi tentavano un'altra strada e via così. A mio avviso, in questo momento storico, quando noi tutti siamo in una fase di transizione che non abbiamo ancora capito dove ci porterà, bloccare i tentativi, o meglio, rendere più agevoli i tentativi anche di sbagliare, diventa fondamentale. Vorrei sapere la sua opinione dopo il traffico. Focus Economia. Dunque, Bonomi, è ancora più importante adesso la possibilità di fallire e di tentare, vista la transizione, la rivoluzione in cui siamo pienamente immersi, ma di cui non abbiamo ancora capito dove ci porterà? Ma direi che è importantissimo per due motivi, sempre facendo riferimento alla legge. Punto primo, c'è una dimensione di crisi di impresa, usiamo questo termine, paziente, che credo che vada applicata a quella dimensione di distretti, capitalismo diffuso, capitalismo molecolare, quella proliferazione di imprese artigiane, di piccole imprese che sono ancora in difficoltà. E seconda cosa, invece, la legge incomincia a interpretare il nuovo che avanza. E il nuovo che avanza sono tutte le esperienze, perché ormai, parliamoci chiaro, rispetto ai giovani diciamo due cose. Cerchiamo di trovare forme di lavoro che diano un po' più di garanzie rispetto al precariato, e l'altra cosa che diciamo è guardate che forse fare impresa dentro nuove tecnologie, grande cambiamento, informazioni, comunicazione, tecnologie, proviamo a affrontare la modernità. Questi sono i due temi che diciamo. Allora rispetto a questo, siccome diciamo proviamoci, nessuno ha la garanzia, ovviamente una legge che non mette il marchio a chi ci prova? A chi ci prova, secondo me, è importante. Un'ultima annotazione. Un secondo. Sarebbe necessario che oltre a una legge e un paziente ci

fallisce, visto che adesso parleremo anche di banche, al netto di chi crea un dissesto finanziario per colpa e per attività fraudolente, per cattiva gestione, qui stiamo parlando di fallimenti di chi ha tentato una strada. Allora, mi scrive un ascoltatore: Barisoni, sei come la D'Urso, immagino Barbara D'Urso, ma guardi. Rispetto Barbara D'Urso, fa un programma che ha un ottimo ascolto, non è questo programma. Rispetto a Barbara D'Urso un po' meno lei, perché mi sembra che non abbia capito una mazza di quello che abbiamo detto fino adesso, ma comunque. Allora, andiamo avanti invece, la borsa la faccio io oggi, giornata molto piatta, vorrei arrivare subito a Banca Etruria. Comunque torneremo anche sul tema del, non tanto della legge sui fallimenti, ma del fatto che, ripeto, solo chi cammina può cadere, chi sta seduto su una sedia è difficile che cada, e il tratto culturale di questo paese, delle volte in qualunque luogo di lavoro, ho detto anche qui a Radio 24, anche a Sole 24 Ore, è che vediamo se cadi, intanto io non faccio. È ovvio che chi fa sbaglia, anche delle volte, si spera che sbagli il meno possibile, chi non fa è impossibile che sbagli, cadere da seduti è molto difficile. Ma è bene che lo mettano in testa anche le famiglie e i loro figli, cioè che quando il ragazzo viene bocciato, per carità, ripeto, in alcuni casi c'è anche una voglia di essere bocciati, ma non è la fine del mondo se una cosa, che un'intrapresa che tu hai avuto non va a buon termine. Ci ritenti, si va avanti così. Non c'è, nessuno nasce genio e nessuno nasce imparato. Poi lasciate stare tutti quelli che mi dicono: ah, sbagli, ah, vedrai che fallisci. Sono dei falliti loro, sono falliti prima ancora di fallire. Allora, dicevo, la borsa: Campari più 3%, Recordati più 0,60, Buzzi Unicempure più 0,60, Terna più 0,40, invece banche ancora sotto pressione per via delle revisioni nel trattamento delle sofferenze bancarie da parte della BCE dal 1 gennaio, Banco BPM meno 3,60, UBI meno 3,30, BPER meno 3%, ancora Unicredit meno 1,30, Intesa meno 1%, cede anche Azimut dopo i dati deludenti sulla raccolta meno 3,61%, cede anche Mediaset l'1,70%, era molto salita nei giorni scorsi, mi sembrano prevalentemente realizzi. Italgas invece va bene, anche perché ci sono stime di una crescita dei dividendi, va bene, ma guadagna lo 0,40%. Mondadori, tra i titoli a minore capitalizzazione, molto bene, più 6,90%, il mercato punta a una buona chiusura d'anno per i conti. Il miglior titolo in assoluto è Sintesi, poi più 13%, poi Mondadori, poi Mondo TV più 6,90%, e poi Gequity più 5,70%. Fronte opposto, CHL meno 6, Amplifon meno 5,15, Elica meno 4,70, Landi Renzo meno 4,50%. 349-238-6666 resta il numero per SMS e WhatsApp. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, fallimento di Banca Etruria. L'avvocato difensore di parte civile Nicoletta De Santis al microfono della nostra Livia Zancaner, si va verso un maxi processo. Ricordo che la notizia in primo luogo è che il liquidatore Giuseppe Santoni ha chiesto a 37 persone, gli ex vertici, danni per 400 milioni di euro e 112 milioni di danni anche alla società di revisione PricewaterhouseCoopers. Poi vedremo la parte giudiziaria invece, perché c'è il lato penale oltre che il lato civile, bancarotta per il dissesto dell'istituto. Lì non è coinvolto Pierluigi Boschi, che invece è coinvolto nella richiesta di risarcimento. Sono 22 gli ex dirigenti indagati. E poi che cosa vuol dire la riunificazione dei procedimenti relativi alla bancarotta, bancarotta bis, sindaci, revisori. Però sentiamo la parte civile, Nicoletta De Santis, e poi anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sempre al microfono la nostra Livia Zancaner, visto che anche il comune di Arezzo si è costituito parte civile. Si tratta di due procedimenti a carico, sempre per bancarotta, a carico più o meno, alcuni soggetti si identificano con quelli dell'originario procedimento principale, diciamo che anche il più vecchio del 2016, quindi membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, mentre uno riguarda Bronchi e Rosi per quanto riguarda la liquidazione che è stata data a Bronchi e quindi la distrazione della somma di circa 700 mila euro. E per quanto riguarda la richiesta di costituzione delle parti civili? L'udienza del 2 novembre, che è la prossima già calendarizzata dal giudice, si discuterà sull'ammissione di tutte le parti civili, sia quelle del 22 giugno, per la prima fase, diciamo, per il primo procedimento, sia per quelle di stamani. E le parti civili sono tantissime. Stamattina, ad esempio, si sono costituiti 1.500 per Feder Consumatori. La, diciamo, graticola mediatica nella quale si è trovata la banca si è portata dietro l'intera città di Arezzo. Arezzo è stata dipinta per mesi come una città o di allocchi o di lestofanti, e quindi c'è un danno diretto e indiretto sulla città e sui suoi cittadini, sugli imprenditori, sul sistema economico. Di questo, diciamo, problema noi abbiamo voluto incaricare un nostro legale, perché se la magistratura individuerà delle responsabilità, bene, è corretto che la città ne abbia il giusto ristoro. Cosa significa, secondo lei, riunire i filoni in un unico procedimento? È un'operazione, secondo me, un po' rischiosa, perché si rischia di perdere la specificità di ciascuno dei filoni in cui era stato inizialmente scomposto il tema. Il forte rischio è che si faccia un grande polverone e non si arrivi a nulla. Allora, Sara Monaci, oggi ho un problema, ne ho più di uno, ma oggi ho un problema con i blocchi del programma totale. Vedremo se riusciamo a parlare di Alitalia dopo o no. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, sì. Andiamo sul traffico e poi molti mi scrivono, ma vedrete che poi quando ci sarà da ottenere questi soldi saranno tutti nulla tenenti. Ragazzi, neanche possiamo fare il processo al futuro. Intanto la richiesta di 400 milioni più 112 per Pricewaterhouse da parte del liquidatore. E poi vedremo. Comunque, dopo il traffico, la tua analisi e che cosa vuol dire anche l'accorpamento delle inchieste, la riunificazione dei procedimenti relativi alla bancarotta, bancarotta bis, e sindaci e revisori contabili. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presento Focus Economia. Allora, Sara Monaci, perché è importante la richiesta del liquidatore Giuseppe Santoni davanti al Tribunale Civile, anche perché lui dice è crollata Banca Etruria risultando totalmente spolpata nella sua consistenza patrimoniale sotto il peso di errori madornali degli amministratori, da una serie incredibile di erogazioni di favore in palese conflitto di interesse? Ecco, questi sono i fallimenti di cui non stavamo parlando prima, se volete che usi il parallelo, anche se poi la banca non è fallita, nel senso che ce la siamo accollata noi. Prego, Santoni usa parole molto dure e anche inaspettate. Tra l'altro, questa azione di responsabilità che è arrivata poi in questi giorni non era nemmeno scontata, qualcuno pensava che non ci sarebbe nemmeno stata. Fatto sta che Santoni è ancora più duro dal punto di vista della richiesta di risarcimento di quanto non lo fosse la procura nella sua valutazione dell'ammontare della bancarotta fraudolenta, che se non sbaglio si aggirava intorno ai 300 milioni, questa è la stima della procura. Santoni chiede 576 milioni, come giustamente tu hai ricordato, di cui 112 alla società di revisione dei conti PricewaterhouseCoopers. Quindi una cifra mostre per gli ex 37 consiglieri, non tutti hanno la stessa responsabilità, anche qui non si può, diciamo, dividere in modo preciso, perché c'è qualcuno che è arrivato prima, qualcuno che è arrivato dopo, qualcuno che ha avuto più incarichi. Per esempio, c'è stato l'ultimo CDA, è stato in carica soltanto 6 mesi, allora in particolare viene attribuita, questa secondo me è la nota un po' più scivolosa di questa contestazione, la mancata fusione con un partner. Quel partner doveva essere Banca Popolare di Vicenza, che, insomma, come sapete non versa in ottime acque, anzi c'è un'inchiesta anche lì appena conclusa, non per fallimento, ma insomma c'è un aggiotaggio e c'è un ostacolo alla vigilanza. Sappiamo che qualche problema finanziario ce li ha avuti anche. No, ma che banca. Qualche problema? Oh, esatto, rischiato il più grosso crack, stiamo parlando bancario, in eufemismo. In senso, tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Esatto, comunque questa è la contestazione. Santoni è andato giù molto duro, parla di spolpamenti, di mala gestio, di condotte sbagliate, fa l'elenco dei consiglieri. C'è ancora Boschi, so che sembra sembra un po' un ritornello un po' noioso, però lo annotiamo perché evidentemente è stato un nome al centro anche di questa inchiesta. Altra questione è il procedimento penale, nel senso che il procedimento penale va avanti. Questa è la parte civile, nel senso che l'azione di responsabilità riguarda i nuovi amministratori che, guardando i conti, responsabilità anche di omessi controlli o di omesse condotte positive, quindi non è necessariamente il dolo quello che si cerca, è anche proprio la negligenza nelle proprie azioni professionali. Ecco, questo è tutto ciò che riguarderà il Tribunale Civile, perché ci sarà un ricorso da parte dei consiglieri. Dal punto di vista penale, invece, si è aperto proprio oggi il processo per bancarotta fraudolenta. La scelta è di riunificare dei fascicoli. Cosa significa? Sostanzialmente semplificare, mettere tutto insieme, andare dentro un solo binario. A mio avviso semplifica in realtà e toglie o quantomeno riduce il rischio di eventuali prescrizioni. Scelte simili sono state fatte anche a Milano per MPS, quindi non concordo, diciamo, con la visione di chi dice che si perdono le specificità. È vero, qualcosa si perde, ma si dà maggiore sicurezza che l'azione penale vada in porto. La bancarotta fraudolenta è la prima grande operazione, cioè la mole principale delle condotte di distorsive, ovvero quei prestiti dati senza meriti di credito, per amicizia, per conflitti di interesse e via dicendo. Il bis è una serie di condotte simili, ma su fatti minori che sono stati scoperti in corso d'opera. Riunificandoli si dà un unico passaggio. Sara, la domanda che molti si fanno, vedo anche gli ascoltatori al 349-238-6666, è se questa richiesta possa rappresentare in qualche modo un paradigma per altri casi. Mi riferisco in questo caso non tanto al Monte dei Paschi di Siena, dove ci sono dei capi di imputazione diversi, poi c'è stata un'azione di responsabilità, esatto, e, ma anche i casi che tu prima citavi, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Cassa di Piano di Genova, anche lì abbiamo visto però un'azione di responsabilità, se vado a memoria. Beh, ci sono, io direi che la maggior parte dei casi hanno avuto delle azioni di responsabilità, anche se a volte sofferte, dolorose, perché a volte non si sa bene se convenga o no. Cioè, l'azione di responsabilità è una scelta civilistica che ha anche valutazioni di opportunità, perché mentre dal punto di vista penale si procede per obbligo, la magistratura di fronte a un reato deve più o meno, diciamo, procedere perché c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, dal punto di vista civile si sceglie se farlo o meno, perché magari può non convenire imbattersi in azioni lunghe che danno magari scarsità di risultato ma molta complessità dal punto di vista legale. Devo dire che da quello che ho visto negli ultimi anni in altre vicende, ricordo che ci sono anche altre banche come ad esempio Banca Marche, simile caso a quello di Banca Etruria, c'è stata comunque un'azione di responsabilità. Recentemente è stata fatta a Vicenza, è stata fatta anche al Monte dei Paschi. Io credo che sia quasi inevitabile. Poi il fatto che vengano poi effettivamente risarcite e queste cifre pagate, no, che siano aggredibili beni, perché molti mi scrivono beh, ma saranno nullatenenti, tempo che ho capito, però questo non è un buon motivo per non fare un'azione di responsabilità, non so come dire. Ora vorrei dire, a volte sono anche simboliche, io non so se poi alla fine si arriverà veramente al fatto che 37 persone riescano a pagare oltre 500 milioni, 464, diciamo, i consiglieri, forse la società di revisione sì, forse qualcuno dispone di più soldi, altri no. Però diciamo che ha un suo valore anche dal punto di vista diciamo simbolico, morale, e ricordo che Santoni peraltro si è costituito parte civile anche nel processo, quindi questo è un aspetto interessante. Questo è un aspetto interessante, e ripeto, non possiamo fare il processo a come andrà a finire l'azione di responsabilità. Importante da questo punto di vista che venga fatta un'azione di responsabilità se ci sono gli elementi, e mi sembra che Santoni, nelle parole che ha usato, ne rinveda più di uno di elemento. Per quello che riguarda invece la commissione parlamentare, perché oggi ci sono state le dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare per quello che riguarda la commissione parlamentare sulle banche, e Pier Ferdinando Casini ha detto sostanzialmente oggi che si partirà dalle crisi più recenti, dalle banche venete e poi a ritroso, e che la commissione d'inchiesta sulle banche si occuperà anche di seguire in maniera specifica il tema degli stipendi dei manager bancari. Andrà trattata come materia separatamente, perché acquista particolare rilievo alla luce del fatto che a volte gli standard stipendiali in questione non sono risultati in linea con la situazione di difficoltà delle singole banche. Beh, Vicenza, su questo, ragazzi, se volete vi do la lista di quanto presero i vari Sorato, Iorio, per uscire a lasciare la banca praticamente, che poi diciamo non c'era più, tutto regolare, nel senso che nessuno ha commesso un illecito in quel caso. Il problema è se è opportuno, non se sia legale. Grazie intanto a Sara Monaci. Grazie a voi. Allora, siccome qualcuno continua a scrivermi, non ho voglia di polemizzare con gli mi scrive un ascoltatore, ma allora cosa vuol dire che se io non scelgo di rischiare e scelgo un'attività tranquilla sono un fallito? No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che state attenti e insegnate ai vostri figli che sbagliare è tipico di chi le cose le fa e cerca di farle. Due, che chi vi dice ma non tentarci nemmeno, tanto fallirai, è lui chi vi dà questo consiglio, di solito un fallito. Io non ho detto che sia un fallito chi sceglie di non rischiare nella vita, ho detto semplicemente che è un fallito di solito chi ti critica perché stai rischiando. Questo nell'esperienza quotidiana. Comunque non ho voglia di polemizzare, chiudo di nuovo con Alice, visto che molti mi chiedete di nuovo l'audio, vi siete commossi e mi sembra la risposta migliore, più di tante frasi di Bezos, di Steve Jobs, il perché culturalmente non ha senso pensare di essere un fallito solo perché hai avuto un fallimento nei tuoi tentativi di impresa. Alice, e poi l'appuntamento è domani alle 17 con la poco invidiabile classifica. Lì devo dire che quando viene sprecato denaro pubblico io di così... di disperazione ho vista sempre molto molto poca. Io volevo dare solo il mio contributo in quanto figlia di un suicida. Mio padre si è tolto la vita 18 anni fa, però non nella crisi di oggi, erano gli anni 90 e probabilmente, io non lo so, ero piccolina, avevo 16 anni, ma magari era anche un evasore, magari aveva tutti i torti di questo mondo e tutto quanto, però è un uomo che si è tolto la vita per una questione di soldi, di debiti, di tanti debiti, perché mia madre ha dovuto rinunciare a tutto, io non ho neanche una foto di mio padre, ecco, perché abbiamo dovuto rinunciare a tutto. Quello che voglio dire agli imprenditori che però pensano di togliersi la vita per i soldi è, prima di tutto, che sono d'accordo con chi è intervenuto prima di me e sono felice che qualcuno lo pensi, e secondo, che noi che rimaniamo, per quanto questo, che quello che mi è successo mi abbia forgiato, mi abbia dato energia, io sono un'imprenditrice, non ho paura di questo, lavoro, sono cresciuta, i miei fratelli anche, siamo una bella famiglia, però io dopo 18 anni ancora sto male, ancora piango, ancora non ho dimenticato, ancora ho difficoltà a relazionarmi con le altre persone e nella mia testa c'è sempre la stessa frase: se è riuscito a mollarmi lui, lo possono fare tutti. Quindi pensateci bene, perché non ci sono solo i soldi. Chiedo scusa. Radio 24, libera la voglia di fare.